piano di cottura a induzione di gag non possiamo dire sia un piano di cottura intelligente, perché riconosce dove vengono messe le pentole. Abbiamo a disposizione la totalità della superficie e una volta acceso mettiamo la pentola dove vogliamo e il display indicherà in che punto del piano è stata messa la pentola. Una volta identificata nel display si può iniziare a comandare il piano stesso. Adesso viene visualizzato sul display. Quindi stiamo utilizzando uno schermo touch. Sì, stiamo utilizzando uno schermo touch molto simile agli iPhone, ormai molto comuni e quindi molto più vicini alla gente. Una volta selezionato la parte si seleziona la potenza e in seguito anche il tempo. Quindi abbiamo le due dimensioni per iniziare a cuocere. Questo è semplicemente in pochissime parole come è disposto il funzionamento. Perfetto. A livello di uso del calore, ecco, questo piano cottura lo chiamiamo intelligente anche perché in qualche modo utilizza soltanto quello che gli serve senza sprecarne ulteriormente. Esattamente. Con i piani a cottura a induzione Gaggenau tutto il calore viene concentrato esclusivamente sul fondo della pentola. Questo significa che non c'è dispersione di calore. Se pensiamo alla cottura a gas, il gas prima di tutto non scalda solo la pentola, ma scalda l'aria, scalda i bordi della pentola, scalda la griglia del fornello e poi in seguito il cibo naturalmente. Con questo non voglio dire che il cibo cucinato all'induzione ha un tempo di cottura inferiore intrinseco, perché quello è determinato dal cibo stesso. La grandissima resa è determinata proprio dall'evitare gli sprechi di questo tipo di cottura a induzione.